posizione a quello, qua, posizione a questo qua, capito? Catenzo dice che siamo noi che gli rompiamo i coglioni, no? Poi buona salata a dire, dove ti trovo ti rompi?